Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. E buongiorno, buon sabato. Eccomi qui di nuovo con voi in diretta per questa prima puntata di Obiettivo Salute, un appuntamento per conoscere tutto quello che si può fare e sapere per stare bene, per sentirci meglio, al di là delle mode, dei luoghi comuni, delle leggende metropolitane, solo quello che serve e solo quello che funziona. Allora, come per tutte le nuove avventure, è importante, mi dicono, partire con il piede giusto. Per affrontare una nuova sfida, un nuovo cammino, ci vuole un pochino di energia, un pochino di fortuna. Io incrocio le dita, so che mi sosterrete. Intanto potete farlo sin d'ora all'800 24 00 24 e per prendere il passo ho pensato oggi di iniziare a parlarvi proprio di cammino, che è un'attività che ha il placet della ricerca. Passo dopo passo noi siamo arrivati al weekend e quindi siamo arrivati a questa puntata di Obiettivo Salute, e poi domani io vi accompagnerò in un nuovo programma che mi metterà in contatto con voi, La Bufala in Tavola, dove parleremo di tutte le bufale, le fake news, tutte le notizie false e tendenziose che non hanno alcun fondamento scientifico, che ci danno a bere, perché noi sappiamo che siamo quello che mangiamo e questo ha dato adito e ha fatto nascere e crescere delle notizie che con la nostra salute non hanno nulla a che fare. Ne parleremo domani, quindi vi aspetto, ma intanto se volete intervenire oggi 800 24 00 24 potete naturalmente mandarmi un messaggio anche via WhatsApp al 349 238 6666. Quindi queste sono le coordinate per riprendere le buone abitudini, restare in contatto con me e con i nostri esperti. Vi ricordo che a mezzogiorno ogni giorno, da lunedì al venerdì, dopo Obiettivo Salute, parte la nostra diretta Facebook e quindi vi invito a seguire. Ma allora partiamo? Sì, partiamo. No, io parto con grande entusiasmo perché ho due amiche dal di là del vetro, Claudia Schiattone e Valeria Bernardi, in regia alla parte tecnica, che mi fanno grandi sorrisi e mi dicono: forza Nico, nelle nuove avventure si parte sempre con degli amici al fianco. Quindi io ho le mie due amiche, ma ho anche un amico che voi conoscete molto bene, che ci ha accompagnato, un amico di lungo corso, Essere Benessere, Cuori e Denari, adesso Obiettivo Salute, è tornato qui in studio a trovarci, Franco Confalonieri, medico sportivo, medico della salute. Dottor Confalonieri, sì, il CONFA per gli amici. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Intanto grazie, è un onore e un'emozione iniziare questa avventura dopo tanti anni con te. Sono veramente contento, in bocca al lupo davvero a Obiettivo Salute. Medico della salute, sì, perché credo sia una figura sempre più importante occuparsi di tutto ciò che ci può aiutare a stare meglio e a prevenire le malattie. Primo fra tutti l'esercizio fisico e l'alimentazione, quindi di questo parleremo oggi e di questo mi occupo io. E continueremo a parlarne naturalmente. Allora, per fare le cose per bene, dato che io ormai mi sono definita, e la cosa, ho visto che vi è piaciuta, mi avete scritto in molti, la vostra ossessione quotidiana, ossessione salutare quotidiana, abbiamo pensato subito di aiutare chi vuole di voi riprendere il passo con noi, di mettere a disposizione la competenza del dottor Confalonieri, che si è offerto, anzi devo dire che gliel'ho proposto ma ha accettato con grande piacere, lo confermo, di aiutare con un programma della prima settimana chi di voi decidesse di riprendere il passo e quindi di rimettere un po' a posto sia l'alimentazione che l'attività sportiva con gradualità. Esatto, costruiremo insieme la prima settimana, che è la più importante dal punto di vista degli effetti, dal punto di vista della motivazione. Poi potrete continuare secondo queste indicazioni e io cercherò di aiutarvi per iniziare bene e per proseguire poi gradualmente. Cosa dovete fare? Dovete scrivere a obiettivosalute@radio24.it. La via si percorre passo dopo passo. Se un passo è intenso e perfetto, lo sarà anche quello successivo. Pensiamo a fare ogni passo in maniera perfetta, non alla via. Non chiediamo altro che il nostro pane quotidiano, e cioè qui e ora. il nostro presente. Alejandro Jodorowsky, scrittore, fumettista, saggista, drammaturgo. Allora, nel qui e ora, 800 24 00 24, ma cerchiamo di capire dal dottor Confalonieri quanti sono i benefici di un cammino. A volte basta una semplice camminata per farci vedere le cose in modo diverso. Possiamo considerarla una sorta di antistress, quasi che tra i piedi e il nostro cervello, seppur lontani, ci fosse una relazione, un mutuo soccorso. Assolutamente sì, si sa che l'esercizio fisico e quindi il cammino, che è il primo fra tutti per noi bipedi, migliora il nostro equilibrio ormonale, libera una serie di sostanze che ci fanno stare bene a livello cerebrale, ma non solo. Il cammino ha effetti sicuramente positivi a livello metabolico, per esempio per chi è in sovrappeso, per chi soffre di diabete, ha effetti positivi molto importanti sul sistema cardiovascolare e penso che potremo parlarne ancora nell'arco di questo appuntamento. Indubbiamente è importante, mi porto un attimino avanti, sapere quanto camminare. Cioè... Bravo, perché si dice cammino, ma bisogna camminare bene. Allora, già alzarsi dalla sedia, fare due passi, andare a trovare l'amico, andare giù a bere un caffè, già combatte quella che possiamo definire sedentarietà, che è la madre di tutti i mali. Ma per rendere il cammino questa attività che non richiede requisiti particolari, non ha stagioni, non costa nulla e poi può piacere sì ai solitari, sia anche a chi ama stare in compagnia, ecco, bisogna camminare bene. Quindi quanto camminare, soprattutto a che velocità andare e come faccio a trovare la mia velocità? Dottor Confalonieri. Allora, innanzitutto sul quanto ampliamo un po' la regola dei 10.000 passi che tutti conoscono. Per iniziare possiamo accontentarci anche di 6.000-7.500 passi per poi aumentare, che già fanno la differenza con la sedentarietà. In questo caso si parla di passi nell'arco della giornata, quindi anche i piccoli movimenti quotidiani di cui parlavi molto bene tu, alla fine ci portano a questi 6.000-7.500 passi che poi diventeranno i fatidici 10.000 raccomandati da tutte le associazioni. Un'alternativa importante può essere anche limitarsi a camminare un quarto d'ora, 20 minuti consecutivi, se non abbiamo modo di muoverci, per esempio, durante l'attività lavorativa, a una velocità relativamente elevata, perché sennò non serve a nulla, non è lo shopping, non è il passeggio. Una velocità relativamente elevata è una velocità intorno ai 4-5 km all'ora, è una velocità che ci consente di camminare parlando senza affanno, ma con un minimo di difficoltà. Ecco, questo è un po' il criterio fondamentale. Soprattutto cerchiamo di camminare con un passo regolare, quindi passi né troppo ampi né troppo stretti, ma con una frequenza di passo abbastanza elevata, perché la frequenza di passo elevata è garanzia di attività e quindi di efficienza a livello cardiaco e vascolare. Arrivano tantissimi messaggi, ma come siete carini! 349-238-6666. Devo dire che non li leggo tutti perché mi commuovete un po', ma intanto anche spazio alle vostre telefonate all'800 24 00 24. Dottor Confalonieri, tante volte abbiamo detto che c'è un'attività aerobica e un'attività anaerobica. Il cammino fa parte dell'attività aerobica, questa parola che noi abbiamo imparato a collegare al nostro cuore. Al nostro cuore fa bene, fanno bene tutti gli sport, anche quelle attività che ci mettono in movimento. E a proposito di cuore, voglio raccontarvi un bellissimo progetto che è proprio in cammino. Intanto saluto il professor Landi, che è in linea con noi, è geriatra del Policlinico Gemelli, docente di medicina interna presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia alla Cattolica del Sacro Cuore. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a voi, grazie. Anche voi siete in cammino. Prima settimana di un progetto, il progetto Il Mese del Cuore, un appuntamento che coinvolge in prima linea i medici del Policlinico Gemelli di Roma e che è un appuntamento molto importante perché punta sulla prevenzione. Un progetto che ha a cuore il nostro cuore, in questo caso il cuore dei romani. Direi di sì, come dire, uno slogan prenditi a cuore o prendiamoci a cuore, che significa non soltanto pensare al cuore in quanto organo, ma veramente al cuore di tanti problemi che purtroppo molto spesso, come dire, non affrontiamo, trascuriamo, e molto spesso, un po' come già si diceva prima, rispetto al camminare, non prendiamo in considerazione, che sono proprio alcuni aspetti legati allo stile di vita, che invece sono importantissimi non solo per la nostra salute cardiovascolare, ma per quello che noi diciamo sempre, per una longevità attiva. Professore, noi a proposito di cammino ci fermiamo perché andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade, e poi professore, voi avete un po' fotografato la situazione anche con le esperienze del progetto precedente, un po' ci può tratteggiare l'identikit dell'italiano e che cosa fa, che cosa dovrebbe fare. A tra poco. Il mio piatto migliore. Quello grande per le pizze Roncadin. Roncadin nel banco freezer. Vi presenta. Obiettivo Salute Weekend. Eccomi qua, la vostra salutare ossessione quotidiana. Sono ancora qua a mezzogiorno del sabato, tornerò domenica e poi ancora da lunedì al venerdì con Obiettivo Salute. In studio, dottor Franco Confalonieri, medico della salute. In linea, il professor Francesco Landi, che ci sta raccontando l'iniziativa molto bella che ci sta molto a cuore, si chiama Il Mese del Cuore. Professor Landi, dai risultati raccolti proprio durante il Mese del Cuore dello scorso anno emerge una fotografia degli italiani come popolo dal colesterolo inconsapevole, posso dire così? Sì, decisamente sì. Il colesterolo, innanzitutto, sappiamo bene che è uno dei fattori di rischio cardiovascolari più importanti, in particolare anche in presenza degli altri fattori di rischio cardiovascolari e di uno stile di vita non adeguato. Purtroppo quello che accade molto spesso nella fascia di età, che io dico sempre quella decisiva per la prevenzione sia delle malattie cardiovascolari, ma per poi metterci da parte il patrimonio che ci farà invecchiare bene, cioè dai 40 ai 55-60 anni, una fascia d'età che si controlla poco, che ritiene di essere in buona salute, e per esempio se focalizziamo, come veniva riferito, sul colesterolo, noi vediamo che uno su due, cioè un italiano su due, non ha controllato il colesterolo nell'ultimo anno, e soprattutto chi non lo controlla ritiene di averlo normale. Quando viene posto di fronte al check-up che noi facciamo e che in questo momento proprio preciso stiamo facendo presso gli ambulatori del Polichinico Gemelli, al check-up dei vari fattori di rischio cardiovascolare, tra cui il colesterolo risulta alto, in una fascia tra 200 e 240 milligrammi, che è già una fascia di rischio, insomma, di cui bisogna fare qualcosa. Quali sono i livelli di colesterolo ottimali, professor Landi? Mi raccomando, ragazzi, non facciamo gli struzzi, misuriamo questo colesterolo, che sarà mai, anche perché poi abbiamo tutta la possibilità a disposizione per rimetterlo in sesto, e il nostro cuore, non solo il nostro cuore, ci guadagna. Professor Landi, prima di chiudere. È molto 200, ecco. Senza girarci intorno, non dobbiamo farci sconti. 200 cifra tonda, ecco. Tra 200 e 240 c'è già un fattore, come dire, alto, sopra 240 dobbiamo assolutamente intervenire. Noi sappiamo che possiamo intervenire anche con lo stile di vita, anche modificando alcune abitudini alimentari, implementando sicuramente l'esercizio fisico, la camminata veloce, come veniva detto prima, e questo dobbiamo farlo, e dobbiamo farlo quando siamo in tempo, ripeto, tra 40 e 60 anni, quello è un momento assolutamente decisivo in cui dobbiamo controllarci. E puntate a 200, e se non abitate a Roma, andate viaggialcuoredelproblema.it, perché, professor Landi, la prevenzione viaggia anche in rete. Grazie, professor Landi. Grazie a voi, grazie a voi. Buona giornata, dottor Confalonieri. Allora, arrivano i messaggi. 54 kg, 1,60 m di altezza. Non sono grassa, ma ho il colesterolo altissimo. Mi sono messa a camminare per obbligo del mio medico, perché sono tendenzialmente sedentaria. Camminare però è una noia mortale, ci scrive Marisa, a che invito a scrivere a obiettivosalute@radio24.it per i consigli del dottor Confalonieri, che invece ci aggiunge. Sicuramente camminare, eventualmente farlo in acqua, così non ci sono problemi di sovrappeso, quindi camminare o nuotare o fare ginnastica in acqua, e se il colesterolo è molto alto, però è evidente che non è sufficiente l'esercizio fisico, bisognerà correggere in modo importante le abitudini alimentari prima di pensare ad eventuali terapie. Completando il discorso molto corretto del professor Landi, un colesterolo fra 200 e 240, primo intervento esercizio fisico, secondo intervento dieta, terzo intervento eventuale supporto farmacologico. Allora, misuratevi il colesterolo, ma misurate anche il giro vita, perché quando il giro vita è largo, la vita si stringe, diventa più breve. Sembra un gioco di parole. Spesso le persone che sono sovrappeso e hanno un po' il giro vita largo, che adesso daremo anche i numeri, ecco, magari non misurano il colesterolo e poi invece scoprono durante un controllo come quello del progetto del mese del cuore di averlo alto. Ecco, dottor Confalonieri, un'indicazione. Sono assolutamente d'accordo. Tre parametri da controllare: colesterolo e trigliceridi, l'abbiamo detto. La glicemia, non trascuriamolo. C'è sempre più situazioni di diabete iniziale di origine alimentare o legato alle abitudini di vita che si stanno diffondendo, quindi è un altro controllo facile da fare, e il diabete si può prevenire molto bene con l'esercizio fisico e col cammino. Terzo, il giro vita. Perché? Perché si è visto che c'è una correlazione diretta tra l'accumulo di grasso a livello viscerale e le patologie cardiovascolari. Quindi è un problema dietetico, è un problema estetico, è un problema per le articolazioni, ma è un problema soprattutto per l'apparato cardiaco. Allora, una nostra amica, anzi un nostro amico, Antonio, suggerisce di scaricare sul proprio cellulare una qualsiasi app contapassi, è gratis. Anch'io l'ho fatto e alla fine della giornata vado a misurare i passi, e questo ci aiuta anche a sottolineare i nostri progressi. Dottor Confalonieri, che dice? Questa, perché credimi buono e lo sarò. E certamente molto motivante. Anch'io personalmente ho vissuto questa esperienza. Nel momento in cui ho cominciato a utilizzare un'app, mi sono trovato portato, anche contro la mia volontà, a raggiungere l'obiettivo che mi ero dato, e quindi a fare quel giro dell'isolato in più, quei quattro passi in più per raggiungere il risultato, perché proprio perché l'app mi metteva di fronte il mio limite, e quindi ci porta indirettamente a fare di più. Ovviamente non dobbiamo diventare schiavi di questa come di qualsiasi altra applicazione tecnologica, però possono essere un supporto validissimo. Obiettivo salute, per l'appunto. Insomma, salute. Fermi mai, via libera al movimento, che è il nome anche di un'altra campagna di cui vi voglio parlare, una campagna di informazione nazionale. In linea abbiamo un grande esperto, il dottor Claudio Cricelli, presidente della Società Italiana di Medicina Generale. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e alla redazione. Dottor Cricelli, abbiamo il colesterolo alto, ma gli italiani hanno anche tanto dolore. 6 italiani su 10 lamentano dolore alla schiena, poi c'è la lombalgia, dolore alla cervicale, ma 4 su 10 sopportano in silenzio questo disagio che costa e impatta sulla salute, ma anche ha un peso economico. La vostra campagna va proprio in questa direzione, per dire fermi mai, ma anche per risolvere il problema del dolore. Sì, il dolore è probabilmente la spia più importante di qualunque disturbo, malessere che riguarda le nostre articolazioni e i nostri muscoli. E lo sappiamo tutti, nessuno di noi nel corso della propria vita può dire di non aver avuto l'esperienza del dolore. Noi abbiamo cercato di fotografarla con lo scopo di far comprendere come si deve affrontare questo problema, sia per la parte, diciamo, in cui noi siamo in grado di risolverlo, più consapevoli, sia per coloro i quali lo sottovalutano, lo trascurano e soprattutto non lo affrontano nella maniera giusta. Il dolore non è una malattia, il dolore è semplicemente un campanello d'allarme, un sintomo, una spia di qualcosa che sta avvenendo all'interno del nostro corpo, e quando si localizza sulle articolazioni, su quello che chiamiamo l'apparato muscolo scheletrico, deve essere interpretato correttamente. Quindi fermi mai, e questa campagna che ci aiuta a aprire gli occhi e a diventare consapevoli, a prendere un po' in mano anche la nostra salute, la nostra prevenzione, farà tappa in una selezione di farmacie italiane, anche dove troverete anche dei materiali informativi, e inoltre c'è un sito web, Via Libera al Movimento. Il dottor Cricelli tornerà nel corso naturalmente di questi mesi a raccontarci, faremo una fotografia e soprattutto vi aiuteremo anche noi a risolvere il vostro problema. Questo è un po' l'obiettivo di Obiettivo Salute. Dottor Cricelli, io la saluto, la ringrazio e le auguro una buona giornata, tanto io so che lei non sta fermo mai. Dottor Confalonieri, vero? No. Dottor Confalonieri, prima di salutarci, diamo ancora due numeri. I numeri del Giro Vita ci chiedono, vogliono proprio, il numero del colesterolo l'abbiamo date, e poi do i riferimenti ancora di Obiettivo Salute. Allora, completiamo, numeri della glicemia, deve essere al di sotto di 100, visto che prima ho parlato di glicemia, così completo l'informazione ovviamente al mattino a digiuno. I numeri del Giro Vita purtroppo sono molto soggettivi perché sono fortemente collegati alla statura di una persona. Comunque diciamo che dovrebbero essere intorno ai 90-100 per una donna, intorno ai 110-120 per un uomo come primo riferimento. Però vanno correlati ovviamente alla statura della persona. Ecco, comunque quando mettete il centimetro lo appoggiate proprio sull'ombelico. Esatto, questo non è tirate importante. Indietro la pancia. Dai, guardiamo proprio la realtà. Io da parte mia vi metto gli esperti a disposizione con tutte le notizie che sono assolutamente certificate. Assolutamente. Voi mettetevi un po' così del passo giusto, nell'idea giusta di ricominciare con noi. Io vi aiuto tutti i giorni, da lunedì alla domenica, sempre a mezzogiorno. Io vi saluto, vi ringrazio dei messaggi che mi hanno commosso e di più. Intanto, dottor Confa, noi ci vedremo per una diretta Facebook. Molto presto in diretta Facebook. Intanto aspetto le vostre richieste per avviarvi, per avviare insieme questo cammino di salute per l'anno che sta cominciando. Obiettivo salute @radio24.it. Buona giornata da Nicoletta.